Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Cosa ci lasciamo alle spalle del decennio appena trascorso? Quali saranno i trend del futuro? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali per il primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Risponde a queste e altre domande Francesco Morace, fondatore di Future Concept Lab, laboratorio di tendenze tra i più prestigiosi al mondo. Per il focus sui trend di questa settimana parleremo poi di consumi pop-up, quando l'effetto sorpresa fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Dopo New York, Londra e Milano, tocca a Parigi chiudere il cerchio delle sfilate del prêt-à-porter femminile per l'autunno-inverno 2012-2013. La capitale francese se la prende comoda. 9 giorni di passerelle e presentazioni fino a mercoledì 7 marzo. Spopola la formula All You Can Eat, il mangia quanto vuoi a prezzo fisso. Secondo una ricerca presentata al Salone dell'Alimentazione Sapore 2012, L'88% di coloro che l'hanno sperimentata si dice soddisfatto della qualità offerta. Crollano gli utili del colosso americano Gap, meno 30%, colpa del maggior costo delle materie prime e della politica di sconti adottata per attrarre i consumatori, dice la società, che per il 2012 punterà su potenziamento del business online ed espansione del marchio al di fuori degli Stati Uniti. Cuoio trattato come filigrana e decorato come pizzo, plastiche di pregio, effetti vetro e pietra, applicazioni di materiali inediti come il fil di ferro, accostamenti azzardati come camoscio e vernice o lana e pelle. Questi i trend della pelletteria e degli accessori in vetrina al MIPEL, il salone del settore che quest'anno compie 50 anni. La Giappone mania in Italia passa anche dall'arte degli haiku, espressione letteraria giapponese tra le più popolari. Gli haiku sono piccole poesie di 3 versi, semplici e profonde. Un gatto nero in candeggina finì, del noto scrittore per ragazzi Pino Pace, è il primo libro italiano che propone gli haiku ai bambini, insegnando come crearne di nuovi. Nasce negli Stati Uniti spinlister.com, primo social network per ciclisti, che consente di trovare in qualsiasi città americana biciclette in affitto da ciclisti del posto. Per il suo fondatore, Spinlister è l'ultima evoluzione di un più ampio percorso di economia sociale e di condivisione legato al mondo della bicicletta. La borsa della spesa. La scelta è ardua. Sono talmente diverse. Ti fa ridere? No, niente, ecco, solo che quelle 2 cinture mi sembrano esattamente identiche. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba. Con Il diavolo veste Prada abbiamo voluto omaggiare Meryl Streep, fresca di Oscar, la settimana della moda che si è appena conclusa a Milano, e abbiamo voluto giocare con le difficili alchimie che regolano tutto quanto abbia a che fare con nuove tendenze, strategie e scenari del mondo dei consumi. Quali sono i trend che ci lasciamo alle spalle e quali saranno invece quelli protagonisti dei prossimi anni? Ne abbiamo parlato con il sociologo Francesco Morace, autore del libro I paradigmi del futuro, lo scenario dei trend. Ci lasciamo alle spalle la superficialità e diciamo anche la passività dei consumatori, delle persone. Noi abbiamo vissuto per 20 anni nel paradigma precedente con l'idea che ci fossero tendenze che bisognava seguire per essere più importanti, per essere ascoltati, per sentirci, come dire, giusti. Ecco, allora

e soprattutto da questo punto di vista l'Italia è uno dei laboratori più importanti del mondo, perché noi siamo per cultura una società intergenerazionale. Come sappiamo bene, anche per motivi purtroppo tristi, ma i ragazzi rimangono a casa dei genitori fino a 35 anni, l'Italia è il paese dove i nonni trascorrono più tempo con i propri nipoti, e questo ha un versante comunque positivo, che è quello dello scambio di esperienze, e il consumo si apre ad una molteplicità, quindi ciascun prodotto, ciascuna marca può diventare poliglotta, cioè parlare diverse lingue a diverse generazioni. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte dedicata al focus sui trend. Oggi parliamo di consumi pop-up. Accanto a me, come sempre, Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Effetto pop-up, cioè effetto sorpresa, come quello creato appunto dalla finestra pubblicitaria che si apre su molti siti, dal fenomeno temporary, negozi, hotel, ristoranti, addirittura cinema temporanei, al boom delle vending machine, i distributori automatici, le cosiddette macchinette che ormai non offrono più solo caffè, merendine, ma di tutto, abbigliamento, scarpe, libri, medicine, persino gioielli. È la modalità on the go, in movimento, a fare tendenza, e il mondo dei consumi si adegua a poter comprare, mangiare, rilassarsi, divertirsi dove meno te lo aspetti. Patrizia. Sì, i pop-up sono i punti vendita, quelli che spuntano come funghi in luoghi inaspettati, sono esperienze di consumo a sorpresa, a volte anche a scadenza, quando appaiono e scompaiono, come i temporary appunto che già citavi, e che continuano a essere un attrattore esperienziale forte, un espediente ormai consolidato e metabolizzato dai consumatori, ma non per questo meno atteso, anzi questo tipo di imprevisti i consumatori ormai se li aspettano proprio. Brand e aziende che ormai, oltre a servizi, prodotti, sono dispensatori di storie, di emozioni, di nuove esperienze, appunto, alzano un po' il tiro, cercano di stupire in maniera inedita. È il caso di Starbucks, che diventa on the go a Washington, apre i drive-in true coffee shop, quei bar in cui si entra in macchina, per così dire, senza scendere, con l'allungo del beverone al finestrino. Sono quattro container riciclati che diventano stazioni Starbucks. L'estetica e il mondo sono quelli del brand, che li potenzia molto con l'uso di questi container che sono ispirati a quelli su cui viaggia il caffè importato da tutto il mondo. Pop-up è, come anticipavi, legato al concetto di imprevedibilità, proprio come forma di interazione sociale, oltre che codice che si sta diffondendo nel mondo dei consumi, e dunque imbattersi in quello che non si sta cercando è un tipo di esperienza ormai comune, come nel caso dei 6 pop-up store aperti in Europa da Adidas, il gigante dello sport, che ha adottato questa strategia di vendita in Germania, Austria e Svizzera. Le location e l'apertura dei suoi pop-up, allestiti tra l'altro e allestibili in un giorno, velocissimi, format e layout semplicissimi, tutto prodotto, non sono stati annunciati al pubblico, ma solo ad un gruppo ristretto di invitati via social network. Per ora vendono solo le edizioni limitate di Ransom e Blue. Dunque brand e aziende continuano a voler attirare con espedienti diversi le persone nei punti di vendita, ma allo stesso tempo appunto li vogliono intercettare nei vari momenti della loro vita, mentre viaggiano, si spostano, lavorano, in casa, eccetera. Quindi i punti di vendita vengono fatti trovare sulla loro strada. A Seoul, un certo giorno del novembre 2010, le persone in transito nel metro, per esempio, si sono imbattute letteralmente in un supermercato che è comparso improvvisamente, e mentre aspettavano il treno hanno potuto scegliere i prodotti, li hanno acquistati usando lo smartphone evidentemente, e hanno ricevuto la spesa a casa nel giorno, negli orari prescelti, magari la sera stessa al rientro. Sto parlando del Virtual Subway Store di Tesco, un negozio virtuale oltre che un pop-up temporaneo realizzato con pannelli retroilluminati su cui campeggiano le immagini a grandezza naturale dei prodotti, quindi per dimensione e referenza sono identici a quelli che si possono vedere acquistare nel punto di vendita vero, negli scaffali veri. Quindi non è un e-shop visualizzato su schermo gigante, ma proprio la versione digitale di Tesco all'interno di questa stazione. Dopo l'esperienza in metropolitana, l'iniziativa di Tesco, commercialmente di grande successo, si è estesa recentissimamente a 20 fermate degli autobus della città. Iniziativa simile anche per Mall, che in partnership con Procter & Gamble ha aperto lo scorso 18 ottobre uno store virtuale in 4 stazioni stazioni del metro di Praga. Il retail quindi diventa sempre più nomade, oltre che virtuale. I punti di vendita escono dalle proprie mura, spuntano come funghi anche negli spazi pubblici o nei non luoghi che diventano iperluoghi, inseguono le persone che diventano consumatori continui, sempre e ovunque, in quanto dotati di smartphone sempre connessi. Sono molti i film che hanno raccontato e indagato l'imprevedibilità, che è una delle parole chiave appunto di questa tendenza, dall'Uomo che non c'era dei fratelli Coen al recentissimo Paradiso amaro, protagonista George Clooney. Noi, fra i molti, abbiamo scelto Babel del regista messicano Iñárritu. Perché siamo venuti qui? Per stare soli. Soli. Devo chiamare l'ambasciata. Dove si trova? Dove siamo? Non lo so, io non lo so. L'inserimento di una turista americana ha provocato un incidente internazionale. La notizia diffusa dai telegiornali è sotto gli occhi di tutti. Si sta facendo il possibile. Richard e i bambini, voglio parlare con loro. È un'emergenza, devi rinunciare al matrimonio di tuo figlio. Ma non posso lasciare i bambini a qualcuno. Senti, è una cosa grave, capito? Dove ve ne andate? In Messico. Allora chi sono? Sono mia responsabilità. Signore, le devo chiedere di scendere dalla macchina. Perché? Scenda dalla macchina, certo, guardi, ho detto spiegare. Di scendere dalla macchina. Spiegare, faccia quello che le dico. Scenda dalla macchina. Patrizia, proprio sull'imprevedibilità per il consumatore gioca in questo momento anche il fenomeno, che è un vero e proprio boom, delle vending machine. Sì, questo è un altro modo efficace per inseguire il consumatore e farlo inciampare nei distributori automatici, le vending machine che gli si parano davanti un po' ovunque. Convenienza, flessibilità di pagamento, cioè la possibilità di usare carte di credito, e interazione sono gli ingredienti per questi acquisti temporanei nell'istante in cui si passa appunto davanti a un distributore. Per esempio negli aeroporti, oltre a caffè, snack eccetera, ci sono ormai distributori con rasoi, console portatili, videogiochi, caricabatterie, telefoni eccetera, o fuori dalle farmacie in orario di chiusura, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Tra le novità presentate all'ultima fiera americana dell'Automatic Merchandising Association a New York ci sono le vending machine doppie o ad acquisto multiplo, cioè si acquista cibo e bevanda insieme o si selezionano anche più prodotti con un unico pagamento. Altre, come la Pepsi Touch, mostrano a display le informazioni nutrizionali dei prodotti erogati, o la Coke Touch, che associa una traccia musicale all'uscita della bibita. Tra le evoluzioni del settore, le vending del fresco tra virgolette, dell'appena fatto. Un imprenditore parigino ha ideato per esempio un distributore automatico di baguette fresche installato vicino alla sua panetteria per allungare l'orario di vendita. Ibidem, per un piccolo macellaio deli, uno storico negozio centenario di una cittadina del nord della Spagna. Isarzugasa, che ha esposto un distributore touch e multilingue dei suoi prodotti, che sono carne, salsicce, polpette e qualche piatto pronto. Caso analogo vicino a Bilbao riguarda il pesce fresco. Ma c'è anche il caso italiano di Let's Pizza, progetto roveretano, una macchina che fa la pizza e la fa istantaneamente, cioè partendo dalle materie prime che in 2 minuti e mezzo dal distributore diventano una pizza calda che esce. In tempi di internet, evidentemente, abbiamo le vending machine con la connessione Wi-Fi per gli immigrati digitali e touchscreen sempre più diffuse per i giovani nativi digitali, cioè quelli che decodificano qualsiasi superficie di vetro come schermo, e schermo significa touchscreen, quindi da toccare e attivare con le mani. Quindi dopo computer, telefoni cellulari, il touch inizia a diffondersi anche su piattaforme, diciamo, meno elaborate, tra virgolette, come appunto i distributori automatici. E B-Social di Pepsi è un'interpretazione interessante della condizione reticolare degli individui di oggi e delle nuove tecnologie. È una vending machine connessa in rete con altre per regalare una bibita a distanza. La si acquista, si seleziona l'amico a cui farla arrivare, che riceve un messaggio via smartphone con un codice e la può ritirare al distributore più vicino della città in cui si trova. E nelle stazioni di treni e metropolitane delle città è ormai consueto trovare distributori di libri. In quella di San Paolo, in Brasile, si trova con la formula paga quanto vuoi, di cui abbiamo già diffusamente parlato con riferimento a ristoranti, hotel e servizi pubblicitari. Dunque si prende un libro decidendone il prezzo, l'idea della società brasiliana 24x7 Cultural. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a New York su consumi, pop-up e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano di Memetic Club. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Dunque, se l'immediatezza e la gratificazione istantanea sono i valori comunemente associati alle vending machine, Swap-O-Matic ne aggiunge un altro, la sostenibilità. Di cosa si tratta esattamente? Di una vending machine innovativa che promuove il riuso e il riciclo. Come dice il nome stesso, Swap-O-Matic, un distributore automatico del baratto. Il funzionamento è molto semplice e all'indirizzo swapomatic.com un video lo spiega chiaramente. L'interfaccia è un touchscreen su cui appaiono tre opzioni: scambia, dona o ricevi. Per cui chi la usa può lasciare un oggetto di qualsiasi genere negli appositi alloggiamenti, oppure prenderne uno o scambiarlo con un altro. Il sistema di pagamento, diciamo così, si basa su punti credito, ossia si guadagna un credito per ogni oggetto donato e se ne paga uno per ogni oggetto preso. Per cominciare, ogni nuovo utilizzatore riceve tre crediti. Swap-O-Matic è stata realizzata da una giovane designer per incoraggiare la cultura del riciclo e rendere questa pratica divertente tanto quanto quella di fare un nuovo acquisto. A oggi esiste in un solo esemplare che fa la sua comparsa a rotazione in varie location della città, ma l'idea è quella di distribuirla nei luoghi pubblici come uffici, scuole, eccetera, e diffondere così il messaggio di un consumo più coscienzioso e sostenibile. Grazie Alessia, sicuramente una formula, un'iniziativa da importare. Patrizia, siamo in conclusione. Il pop-up è prevedibilmente una formula su cui il retail continuerà a scommettere? Sì, sicuramente sì. Chiuderei riprendendo i punti di forza, in particolare delle vending machine, che sono convenienza, interazione facile, flessibilità di pagamento e l'evoluzione tecnologica che ne potenzia, che ne aumenta molto le potenzialità, proprio in termini di consumo continuo. E il consumo continuo è un'esperienza che online i consumatori già fanno, cioè comprare 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Dunque, per piccoli e grandi retailer, questa è una grande possibilità di estensione dello spazio temporale delle vendite. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. L'appuntamento è per domenica prossima, come sempre dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.